preoccupante per le vicende che abbiamo avuto dopo le elezioni del 25 settembre. Abbiamo delle cariche dello Stato, delle cariche istituzionali che non smettono di fare dichiarazioni preoccupanti, non solo del disconoscere quello che è il significato e l'importanza della resistenza e del frutto poi più importante della resistenza dell'ultima guerra, che ha prodotto una Costituzione che ancora oggi rimane un grande valore per tutti noi. Io credo che avere cariche dello Stato che dichiarano, come è stato dichiarato, che contro ogni minimo di buonsenso, o anche sarebbe bastato anche solo tacere, ecco, ma dire che la Costituzione non è antifascista è veramente una bestemmia. Io la ritengo una grande bestemmia, per cui che questo avvenga attraverso un Presidente del Senato, e abbiamo assistito a ministri che hanno ritenuto di prendere posizione nei confronti di qualche preside o di altri rappresentanti che comunque fanno il loro lavoro quotidiano importante di educazione, è un segno veramente intollerabile. E io credo che con dignità, con fermezza, noi dobbiamo stare in piazza. Bene ha fatto l'ANPI a organizzare un presidio in via Palmieri sabato scorso, proprio perché non era casuale. Molte persone mi chiedevano: ma perché questo presidio, che senso ha? E gli spiegavo: perché non sa niente nessuno, molti non sanno neanche che esiste una sede fascista attraverso un'associazione fantomatica. Da 10 anni esiste in zona, e prima era utilizzata da Forza Nuova e attualmente da quello che è la rimanenza o il cascame di questa organizzazione fascista. Tutto questo è stato consentito perché qualcuno ad alcuni livelli chiude gli occhi, fa finta di nulla, considera questi soggetti persone come gli altri, e invece non può essere così. Non può essere così, perché chi si arroga il diritto di ridenominare un quartiere 28 ottobre fa un insulto non solo al quartiere, ma a tutti quelli che hanno lasciato la vita, hanno dato un impegno negli anni per mantenere la democrazia in questo territorio. E nascondere questo, minimizzarlo, far finta che sia tutto uguale, io credo che sia veramente inaccettabile. E ci daremo da fare anche nei prossimi giorni di nuovo per riprendere questa vicenda, io dico incresciosa, ma che però viene tranquillamente avallata, soprattutto in casa Haller. In casa Haller non hanno mai risposto alle richieste dell'allora presidente Uliano e delle successive iniziative dell'ANPI, e vedremo se ancora oggi proseguiranno in questa logica. Detto questo, io credo che noi dobbiamo con forza sostenere queste idee, perché comunque io riscontro che i ragazzi, se gli si spiega che cosa è avvenuto, che cosa è accaduto non solo negli anni della liberazione, ma poi ci sono tante testimonianze nel corso dei decenni di questa Repubblica, che è ancora una Repubblica giovane, quella italiana, sostanzialmente rispetto alle democrazie degli altri paesi europei è sicuramente un po' più fragile, fra virgolette. Però io assisto al fatto con piacere che ci sono bambini di serie A e bambini di serie B, e cioè bloccano il riconoscimento, hanno bloccato il riconoscimento dei bambini figli di coppie omogenitoriali. Adesso si spera che i sindaci, così come hanno detto, magari riescano a contenere questa, che è veramente una nefandezza. Abbiamo la riscrittura della storia, ne ha parlato prima Natale, le fosse ardeatine, abbiamo sentito quello che è stato detto, non da uno che passava per la strada, ma dalla seconda carica dello Stato. E la stessa carica dello Stato, che devo dire, se oggi se ne sta a Praga, io sono ben felice. Così non rischiamo di trovarcelo sul palco in Piazza del Duomo. Ha anche detto che la Costituzione in realtà non è antifascista perché non contiene la parola antifascismo. Io mi chiedo se l'abbia mai letta, che la Costituzione forse non avrà la parola antifascismo, ma è impregnata di antifascismo. Poi abbiamo avuto i primi pestaggi squadristi fuori dalle scuole. E che cosa fa appunto il ministro dell'istruzione? Invece che condannare i pestaggi, condanna una preside che nel pieno suo diritto di educatrice scrive una lettera nella quale dice che questi pestaggi sono stati l'inizio del fascismo. Caspita. E invece di condannare per l'appunto lo squadrismo e i pestaggi squadristi, il problema lo crea la preside. Ci sarà una cura per questa malattia? Beh, intanto la cura siamo noi. Siamo noi qui, è questo 25 aprile che quest'anno prende un significato particolare e che non dovrà finire questa sera. Questo 25 aprile dovrà proprio snodarsi in tutti i nostri giorni, nei giorni a venire, perché noi non dobbiamo mai dimenticare che in un certo senso abbiamo un ruolo, siamo chiamati a difendere la Costituzione, a difendere la memoria dei nostri caduti, a difendere i diritti civili che pian pianino vengono smantellati, a difendere i diritti dei lavoratori, coniugando comunque al presente questi valori che ci contraddistinguono e che da tanti anni fanno in modo che noi ci ritroviamo qui tutti assieme, ma trovando anche linguaggi nuovi per coinvolgere i giovani. Oggi qua ne vedo un po', per fortuna, e di questo ne sono molto contenta. Perché poi comunque ci vogliono fuori dalle scuole, ma l'AMPI all'interno delle scuole continuerà ad andare, a dispetto di chi mette striscioni assolutamente inaccettabili. Diciamo che ci aspettano tempi difficili, tempi duri, però non lasciamoci prendere dallo sconforto. Qui siamo in tanti, oggi pomeriggio saremo ancora di più. E pensiamo soprattutto, nel momento in cui ci si dovesse lasciar così travolgere dal pessimismo, che cosa direbbero i nostri partigiani se oggi vedessero questa cosa? E vorrei la parola al laboratorio di parole. Scusate il gioco di parole, volevo chiamare qua un attimo Esther Grancini, vieni, alla quale devo consegnare la tessera ad honorem, tra l'altro ti do anche quella dell'anno scorso, perché l'anno scorso non siamo riusciti a dartela. Allora, vabbè, quella dell'anno scorso, siccome si mette una frase sulla tessera d'onore, in quella dell'anno scorso c'era una frase di Umberto Eco, per l'appunto: libertà e liberazione sono un compito che non finisce mai, che sia questo il nostro motto, non dimenticate, quanto mai attuale. Quest'anno invece abbiamo scelto una frase della passionaria Dolores Ibarruri della guerra di Spagna, che dice: un giorno la vita mi ha colpito talmente forte che ho imparato a resistere. Ci facciamo fare una specie di scenografia da loro? Grazie. Cosa sta per succedere? Dunque, allora, buon 25 aprile a tutti e a tutte. Siamo nel Parco Chiesa Rossa e dopo aver sentito le parole del presidente del municipio e della presidente della sezione del territorio, adesso prendono parola le compagne del laboratorio di parole. Scusate il gioco di parole, ma reciteranno delle poesie. Conduce Esther Grancini, che ha appena ricevuto la tessera ad honorem della sezione. Ma senza il microfono sarà un problema sentirle bene. Ci avviciniamo, forse usano la cassa. Oh, perfetto. Cassa stenta. Prova così. Pronto? Allora. Pillole antifasciste, l'abbiamo chiamate. una raffica di pensieri, di parole, come rimedio per non dimenticare. Resta comunque una buona terapia la memoria, sempre resistenza. C'è qualcuno che lo può tenere? Non riesco a fare, siamo. Tutte le idee vanno rispettate. Il fascismo no, non è un'idea, è la morte di tutte le idee. Il fascismo non è un'opinione, è un crimine. Sandro Pertini. Quando tra gli imbecilli e i furbi si stabilisce un'alleanza, state bene attenti che il fascismo è alle porte. Leonardo Sciascia. Così inizia il fascismo. Non dice mai il suo nome. Striscia, galleggia. Quando mostra la punta del suo naso diciamo: è lui? Ma no, dai, non esageriamo. E poi un giorno l'abbiamo dentro di noi ed è troppo tardi per espellerlo. François Giraud. Ogni epoca ha la sua malattia, alla quale risponde un'altra, ma è probabilmente la stessa nel campo morale. L'Ottocento ebbe la tubercolosi, il Novecento ha il cancro e il fascismo. Umberto Saba. Io il mio discorso l'ho fatto, ora voi preparare il discorso funebre per me. Giacomo Matteotti, affermazione rivolta ai suoi compagni dopo l'accusa a Mussolini di elezioni truccate dai fascisti. La liberazione fu veramente come la crisi acuta di un morbo che finalmente si spezzava dentro il nostro petto, come lo strappo risoluto con cui il popolo italiano riuscì con le sue stesse insieme oppressione, sangue, volgarità e cattivo gusto, la caratteristica principale di una dittatura fascista è l'ignoranza, il disprezzo per la cultura, l'analfabetismo. Oriana Fallaci. Il fascismo è un virus mutante, non è mai morto, non l'abbiamo mai ucciso e ora è tornato mutato. Andrea Camilleri. Il fascismo sarebbe stato grottesco se non fosse stato tragico, se non avesse importato la morte di tanti innocenti. Ricordo Matteotti e Gramsci, solo per fare qualche esempio, il fascismo sarebbe stata una buffonata. Purtroppo invece è stato un evento tragico. Andrea Camilleri. Col mio avversario politico posso avere un dialogo o uno scontro, ma sarà sempre un momento di crescita per entrambi. Ma col fascista non può esserci dialogo, perché il fascismo è l'annullamento dei diritti degli altri. Riguardo le spedizioni punitive dei fascisti, aspettavano, erano degli eroi di essere in 20, in 30 per aggredire gli antifascisti quando si trovavano isolati. Se eravamo in 3, allora non ci aggredivano più. Sandro Pertini. Sei un comunista? No, sono un antifascista. Da molto tempo? Da quando ho capito il fascismo. Ernest Hemingway. Le leggi razziali furono provvidenziali per me, ma anche per gli altri. Costituirono la dimostrazione per assurdo della stupidità del fascismo. Si era ormai dimenticato il volto criminale del fascismo, quello del delitto Matteotti, per intenderci. Rimaneva da vederne quello sciocco. Primo Levi. Quando uscimmo dalla prigione fascista non ci potevamo godere la vita, ma ci godevamo la lotta. Vittorio Foa. Certamente il fascismo è stato già sconfitto una volta, ma siamo ben lungi dall'aver sradicato definitivamente questo male supremo del nostro tempo. Le sue radici sono infatti profonde e si chiamano antisemitismo, razzismo, imperialismo. Anna Arendt. Non dimenticare mai che i meno fascisti tra i fascisti sono sempre fascisti. Rock Dalton. Il fascismo può ancora tornare sotto le spoglie più innocenti. Il nostro dovere è di smascherarlo e di puntare l'indice su ognuna delle sue nuove forme, ogni giorno in ogni parte del mondo. Umberto Eco. Il ventennio fascista non fu come oggi qualche sciagurato in memore figura di credere, un ventennio di ordine e di grandezza nazionale. Fu un ventennio di sconcio irrealismo, di umiliazione, di corrosione morale, di soffocazione quotidiana, di sorda e sotterranea disgregazione morale. Piero Calamandrei. Voi fascisti eravate coraggiosi solo quando arrivavate i mitra delle SS alle spalle. Quando le SS vi hanno lasciati soli, siete scappati tutti di fronte ai partigiani Enrico e Berlinguer. Grazie a tutti. Riuscita a sbrogliarlo. Allora, grazie al laboratorio di parole, soprattutto grazie a queste, le chiamerei pillole di saggezza, più che altro, e di memoria. Adesso chiedo ai ragazzi del dopolavoro Stadera, che sono lì, tutti belli vestiti, da dopolavoro, anzi da lavoro, più che da dopolavoro, magari vi presentate e poi fate quello che dovete fare. Grazie. Tanto aspettiamo, cominciano ad arrivare i primi elementi della banda degli Ottoni che poi ci accompagnerà. Allora, buongiorno a tutti e a tutte. Lo sposto un attimo questo, vedete? Grazie. Scusate. Guarda che si porta lì. 100 euro costa. Poi te lo facciamo pagare a te. Vabbè, ho capito. Allora, noi siamo una parte della comunità teatrale del Dopolavoro Stadera, che alcuni di voi magari conosceranno. Ci presentiamo molto brevemente. Siamo una comunità teatrale nata nel 2015, quindi ormai quasi 10 anni fa, un po' meno, in questo quartiere, nel centro sociale ZAM. Siamo partiti da un laboratorio teatrale che era un gruppo di persone che si ritrovava una volta a settimana per fare teatro insieme, e poi col tempo alcuni di noi si sono professionalizzati, hanno iniziato a fare questo di lavoro e adesso siamo una vera e propria associazione. Abbiamo uno spazio in Barona. E negli ultimi anni, a partire dal Covid, forse ci avete visto in qualche cortile di casa popolare o in qualche parco pubblico con questo progetto che si chiama Brigata Brighella, che è un progetto di teatro popolare che noi portiamo nei cortili delle case popolari. Ed è una cosa che era nata col Covid, perché non potevamo fare altro se non... Scusate che il vento ci è nemico. Niente, quindi adesso il Covid sembra finito, quindi abbiamo iniziato a fare tutti i progetti che facevamo anche prima, anche la Brighella continua, e oggi? Oggi vi leggiamo un pezzo di Alberto Dubito, che era un poeta, performer e militante. E diciamo che in questo periodo storico questo suo pezzo ci sembra la cosa più giusta da portare qui in questa giornata. Cara città, sveglia! Un po' di periferia, come sai fare te. Ma per una volta mettiamo via i rancori. Con te seduto ai bordi dei quartieri, confesso, ne ho viste davvero di tutti i colori. Ma tu ancora hai addosso il coraggio del tuo grigio. Grigio del cemento e del cielo spento di novembre. Noi ancora in mezzo, come una pressa di silenzio che non se ne va. Cara città, sveglia. Blu come il cielo sereno a luglio. Blu come gli occhi suoi. Blu come le divise, le volanti, i caschi e i lividi. Blu come la linea di mercurio che segna 39 e 6. E divide la mia pazza voglia di rivalsa da lei. Blu come la FIFA blu e i brividi che mi dai. Cara città, sveglia. Ora devi spiegarmi come sei messa. Tirata a lusso, in vestito rosso, tacco, spacco. Non puoi raccontarla a me, che conosco il rosso sangue nel lavandino al mattino e nelle celle in piena notte. Ti vesti bene, ma sotto tieni i calzi a rete rotte e un sorriso da film giallo. Ma ho gli occhi rossi. E tu, che dormivi meno di me, sai bene di che ti parlo. Ma ora, cara città, sveglia! malpensandoti viola, come le occhiaie mie. Come il cielo, tinto dall'inquinamento luminoso e cento vizi. Come il radicchio dal retrogusto amaro che prima o poi ingoi e metabolizzi. Già, città amara, più che altro. Strizzi l'occhio bianco, bianca come la coca che tiri, spacci sequestri e poi da capo. Ragazzini bianchi, come la faccia stanca di chi torna a casa dalla notte brava e fa strade. Li conoscete perché già anche negli anni passati ci hanno aiutato a vivere questo 25 aprile. Adesso noi saremo anche abbastanza pronti a partire per il corteo. Aspettiamo solo un attimino che arrivi la banda degli Ottoni, in modo che ci accompagni. Se nel frattempo magari il chitarrista che era qua ci intona un bella ciao. Ah no, ecco, giusto. È vero. Adesso anche bandiera rossa, anche bandiera. Allora, adesso mettiamo la corona. Dove sono i ragazzi, i nostri uomini ragno? Uomini ragno. No, non ce la siamo scordati. Ecco qua, il momento saliente. Ah, il momento saliente della iniziativa davanti al monumento. Franco ha la Naculiscio, fa Laura Conti, ha dei personaggi della Resistenza. Sì. È stato un brutto luglio. Chi è che arriva? Ecco in arrivo la banda degli Ottoni, una delegazione della banda che oggi sarà tutta sparpagliata sul territorio milanese ad accompagnare tutti i cortei territoriali con il loro immancabile Beniamino, un cane bellissimo che li accompagna sempre e non si spaventa a nessun suono acuto degli Ottoni. Cane d'esperienza Beniamino. Tanta esperienza, vede, tanta esperienza. Sì, ma vogliono cantare bandiera rossa, mi vai ragazzi. Bandiera rossa non ce l'abbiamo. È male. È scappato, è scappato. Io nel 45 l'ho cantata perché ero 15 anni ed ero questa fetta di quelli che morivano. Si è morto fratello, bandiera rossa. E l'inno nazionale, no? È bandiera rossa l'inno nazionale. Sì, sta d'accordo o no? No? Sì, dimmi di sì almeno. Sì, ma sto facendo l'altro. Allora, adesso cominciamo a formare il corteo. Sono arrivati. E andiamo verso via Cassone. Passiamo da dentro? Sì, sì. Sì, sicuro. Possiamo partire lì. Andiamo a finire. Non c'è qualcosa? Non l'importanza di prendere la rossa. Se tiro si va. Indugia, il popolo indugia, chiacchiera indugia. La formazione degli Ottoni è una formazione di tutto rispetto, 5 elementi, no, di più, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ne ho perso uno, siamo a 7, il numero perfetto, il numero primo. Che giro facciamo? Perfetto. Facciamo via. Lei porto lei che ci aspetta in via Nera. capire, ma tenere sempre così. Facciamoci una sigaretta nell'attesa. Come ogni 25 aprile non me ne ricordo uno con la pioggia, mi ricordo soltanto delle crisi allergiche mostruose, ma quest'anno ho preso l'antistaminico, quindi dovrei fare una diretta senza crisi. Ma infatti ti sento benissimo. Perfetto, perfetto. Adesso vado a salutare la signora Grancini, che non sapevo che fosse lei. In sezione si parla spesso di lei, perché è un'altra. In questo momento stanno attaccando sotto la lapide un QR code che per quelli più tecnologici serve a trovare la biografia del caduto. Ringraziamo Camera Sud Milano che ha fatto questo lavoro certosino e molto importante. Thank you. Buon 25 aprile. Come? Buon 25 aprile. Oh, grazie, grazie mille anche a te, caro. Il numero 61649 di Mauthausen non ricorda altro, neppure il suo nome. All'indomani muore per un collasso improvviso, nelle tasche il taccuino con le sue memorie. Qui aveva scritto, pochi giorni prima di morire, un breve racconto sulla resistenza a Gusen. Una storia incredibile. Siamo sempre in via Basili, siamo davanti alla corona di Luigi Fiore. Nato a Milano il 10/10/1921, morto a Colico, Monte Legnone, il 2 luglio del 1944. Viene descritto come un ragazzo di corporatura esile, che dimostra molto meno della sua età. La notizia sulla vicenda di Luigi Fiore sono abbastanza precise grazie alla testimonianza del fratellastro Riccardo Fusetti. Dopo essere tornato a casa in licenza dal servizio militare, parte con altri giovani per fare il partigiano nella zona di Colico ed entra a far parte della 55esima Brigata Garibaldi, Fratelli Rosselli. Combatte sotto il Monte Legnone, poi il gruppo di partigiani si separa. Alcuni rientrano a Milano, altri, tra i quali Fiore, rimangono a Colico. Alcuni testimoni raccontano di averlo visto per l'ultima volta nei pressi di Sommafiume, in Val Varrone, proprio nella zona del Monte Legnone. E in quella zona, alla fine di giugno del 1944, fascisti e tedeschi organizzano un grande rastrellamento. Quando i tedeschi se ne vanno, mentre i fascisti continuano a cercare i partigiani, Fiore cade in un burrone, restando privo di soccorsi per un giorno intero, fino alla morte. Questa è la relazione inviata al comando partigiano sulla sua morte. Sabato scorso il gruppo di Mina si spostò sul versante valtellinese del Legnone per sfilare in direzione della zona L, ma si trovò la via sbarrata dalle forze che inseguivano i distaccamenti di SPA. Si decise così il suo occultamento nella zona boschiva sopra Colico. Qui purtroppo infierivano sugli uomini all'addiaccio due giorni e due notti di tempo infame. I contatti erano difficili tra elementi e elementi, Fu così che elementi isolati caddero nelle mani nemiche. 3 o 4 ci risulta finora. Uno fu ucciso dalle raffiche di una pattuglia e un altro precipitò in un burrone, Michele Fiore, dove non fu possibile estrarlo che dopo 2 giorni, ormai morto per esaurimento. Il partigiano caduto nel burrone è proprio Luigi Fiore. La gente del posto, aveva saputo che un partigiano aveva bisogno di essere soccorso, ma la forte presenza dei fascisti sul luogo aveva reso impossibile intervenire. Soltanto quando la situazione torna tranquilla, recupereranno la salma di Luigi Fiore e gli faranno il funerale. Siamo esattamente di fronte. Questa lapide ricorda il garibaldino Biraghi Bruno, che immolò la sua giovinezza combattendo contro i nazifascisti. Nato il 27 novembre 1928, morto il 12 settembre 1944. Sotto la lapide sta venendo attaccato un QR code che linka a una pagina dove viene raccontata la storia. Nato a Milano il 27/11/1928. Morto a Gravellona Toce il 12/9/1944. Nonostante fosse giovanissimo, per la sua stazza e il suo aspetto maturo, aveva attirato l'attenzione della milizia fascista che occupava la scuola elementare di Via Palmieri. I miliziani avevano tentato, anche con minacce, di convincerlo ad arruolarsi. Biraghi, invece, fugge in montagna con l'amico Luigi Fiore e con lui combatte nella zona di Colico con il nome di battaglia Velio, nella seconda divisione Redi della Brigata Rocco. Poi si trasferisce in Valdossola, dove partecipa alla Repubblica dell'Ossola. Il suo compito è quello di difendere la valle nei pressi di Gravellona Toce per fermare il conflitto a fuoco con le forze nazifasciste. Biraghi perde la vita insieme a molti altri compagni. Aveva 16 anni. Ho lasciato per Babbo Natale. Ci sei? Questa è la vecchia? No, no, lascia. Lasciamo questa, no, io sono sentito. Puoi toglierlo quello, no? No, lascia. No. Okay. Tieni tu la bici. Lo chiamo. Giuseppe Deiana a rapporto. Siamo sempre in via Barili, vicino al Naviglio. Aspetta che devo guardare la lapide, perché fino a 5-6 anni fa questa lapide non c'era. Infatti si vede che è anche abbastanza nuova, anzi è nuova, perché nessuno sapeva di questo caso. Io con gli studenti del liceo, cerca qui, cerca là, è venuta fuori questa figura e mi sono fatto dare la documentazione dalla sorella, che era anziana, però aveva conservato la documentazione relativa a questo ragazzo di 18 anni che abitava qua. Ha ricevuto la cartolina gialla per andare nell'esercito della Repubblica Sociale Italiana, si è ribellato e con un amico compagno, credo abitasse anche lui qua, è scappato in Friuli, perché questo amico era originario del Friuli. In Friuli lui è diventato comandante di un gruppo di circa 40 uomini dedita all'approvvigionamento alimentare del movimento partigiano locale. Per delazione lo hanno bruciato, questo è il punto, l'abbiamo scoperto e col tempo siamo riusciti a far mettere la rapida. Io mi fermerei. Buonasera. Buon 25 aprile. Come va? Arriviamo dal parco di Chiesa Rossa, dove abbiamo cominciato a montare per la festa di partigiani in ogni quartiere. Siamo già a buon punto e poi siamo venuti qua a fare il giro delle lapidi insieme all'Ampi. A che ora si inizia? A che ora possiamo dire alla gente di venire alla POC? Ufficialmente iniziamo alle 18, ma se già alle 17.30 siete libere, venite pure. Grazie Rosso. Grazie Dan, ciao. Bene, mi diceva Rosso che i volumi sono un po' bassi. Ah. Però sai. Ok. Ci avviciniamo al momento clou. Stiamo entrando in via Palmieri. Arriviamo sempre da via Gigulfo e ci troviamo all'inizio della via. Sentite i cori che partono. La tensione non si alza perché siamo tante e tanti, ma arriviamo esattamente di fronte al Civico 1, dove ha sede. Come poterla definire, facendo subito capire la qualità di prestanome del gruppo che ha avuto in concessione una sede Aler, dove in realtà, nascosta dietro questa associazione per il quartiere, ha avuto sede fino all'anno scorso, prima dello scioglimento, Forza Nuova ed ora la Rete dei Patrioti. Non sapevo del cambio di nome. Sì, dopo la scissione di un annetto fa, chi è rimasto in Forza Nuova è praticamente sparito e si è creata questa nuova Rete dei Patrioti, che, non saprei dire cosa fanno di preciso oltre apologia di fascismo. Nel 1945, ma se un partigiano si definisce patriota lo posso capire. Se chi è attenta invece alla stabilità dello Stato con le versione nera e si definisce patriota, ho qualche problema. Punto è anche che ci fermiamo esattamente davanti all'uno, perché la prima lapide del numerose che stanno in via Palmieri è esattamente al civico di fronte. Ci sono un sacco di shocking blu. C'è lo shocking blu. Ci sono un sacco di shocking blu a difesa della sede. Oggi però non si vedono i due leocorni, insomma, che di solito sono schierati sotto il portone. Evidentemente oggi hanno dato forfè. sguardi imbarazzati da parte della Digos. Siamo tutte antifasciste! Siamo tutte antifasciste! E qua entrando in via Palmieri si può subito notare che al 2 e al civico 3 si individuano subito le prime due labili e via così tutta la via, pieni di ricordi partigiani. Oh, ma l'Ale era un appartamento qua? Ah, l'Ale era un appartamento qua, è vuoto mi sa, eh? Sa che boh, lo usano male forse, non lo so. Fuori i fascisti dal quartiere, fuori i fascisti dal quartiere, fuori i fascisti dal quartiere, fuori i fascisti dal quartiere, fuori i fascisti dal quartiere, fuori i fascisti da ogni quartiere, fuori i fascisti da ogni quartiere. No? Sì, sì, sì, c'è la lapide. Ma la strada della diretta è troppo figa, ve la volevo scrivere, è bellissima. Buon 25 aprile. Buon 25 aprile. Da me è un piccolo bambino di 4 mesi, Alfredino. Ciao Alfredino. Alfred. Ciao. Grazie di essere qua, vuoi fare una dichiarazione? Guarda, la sta facendo con gli occhi. Sì, sì, sì, si sta dicendo buon 25 aprile a tutte e tutti. E si attacca la paperetta, guarda, guarda. Oh. Silvano Martinini, nato a Milano il 13 maggio 1923, morto a Pratiglione l'11 settembre 1944. Padre di due bambine, una delle quali non ha mai conosciuto. Fa il vigile del fuoco. Si reca nelle valli di Lanzo, nel Canavese, in provincia di Torino, per fare il partigiano, dove si unisce alla quarta divisione Garibaldi. È l'inizio della terrificante operazione Strasbourg, che mira a eliminare le formazioni ribelli ed occupare i punti strategici in prossimità dei valichi alpini. Il 9 settembre, dopo aver ricevuto un avviolancio di armi, il comandante della quarta divisione Garibaldi incarica tre esperti partigiani del trasporto di una mitraglia pesante agli uomini che da alcuni giorni combattono sul soglio. Tra loro c'è Martinini. Secondo la testimonianza di un loro compagno di lotta, con mitraglia e munizioni raggiungono faticosamente la cima del soglio, dove malauguratamente ristagna una fitta nebbia e si intravedono delle ombre armate. Fulmine, Crick e Silvano avanzano fiduciosi, ma vengono circondati dai fascisti che il giorno prima avevano ricevuto rinforzi e occupato il colle. Sotto scorta vengono portati al comando fascista a Pratiglione. Qui, prima dell'esecuzione, subiscono atroci torture per avere informazioni sui partigiani e sul segnale di riconoscimento per gli aerei alleati che effettuavano i lanci. Però allora metto giù. Facciamo facendo una piccola prova a vedere se funziona. Adesso sento musica. E tra qualche secondo magari ci senti. Hi. Ciao. Ciao. E francese? Saper aller. Saper aller? Tu viens d'où? Paris. Vieni da Parigi? Sì. Benvenuta, buon 25 aprile. Merci, grazie. Sappiamo di tutto ciò che sta succedendo in Francia. On sait ce qui se passe en France. Oui. On est de votre côté, quoi. Merci. Beaucoup de répression en France. A lot of repression in France, actually, by the police and the government. So we are very angry. We want to block every whole country and make the government démission. Macron démission. Stanno augurandosi la fine e le dimissioni di Macron. Ieri c'était une journée un peu particulière, hier soir. Oui. È stata una giornata un po' particolare. Hier, il y a eu des actions. Nous cherchons à bloquer le gouvernement. Nous cherchons à ce que le gouvernement et les membres du gouvernement ne se déplacent pas sans stress. Stiamo cercando di fare. Aspetta un momento. Nello stesso periodo entra a far parte di un gruppo antifascista. Uno dei numerosi attacchi dell'aviazione alleata su Milano tocca anche lo stabilimento che, bombardato e distrutto, diviene la causa della disoccupazione di tutti coloro che vi lavoravano. A Ventura viene offerto di entrare nell'organizzazione tedesca TODT, che reclutava volontari italiani per lavori richiesti dalla Wehrmacht in Italia o in Germania. Rifiuta e decide di raggiungere il fratello minore Emilio, che, da una settimana, si trova in montagna a San Martino di Valpuvia, provincia di Varese, entrando a far parte della sua formazione. Essendo un ex tassista, diventa autista di camion. Il 15 novembre del 1943, in pieno rastrellamento tedesco, Angelo Ventura, quasi quarantenne, si offre al posto del fratello minore, che, con altri 10 suoi compagni, era nella lista di coloro che avrebbero dovuto raggiungere una postazione con una mitragliatrice per rallentare l'avanzata dei nazifascisti. Vengono, quindi, mandati sulla cima della montagna per difendere la postazione. Un grave errore da parte del colonnello Carlo Croce, che insisteva ad usare i metodi della guerra convenzionale, anziché la tattica della guerriglia. I partigiani rimangono intrappolati dai fascisti che bloccano la loro unica via di fuga. Vengono anche attaccati dall'aviazione tedesca e riescono a colpire un aereo che si schianta contro una montagna. Ma il coraggio dimostrato non è sufficiente e giocano a loro sfavore la superiorità numerica dei nemici e la fine delle munizioni. Il 16 novembre Ventura e i suoi compagni vengono catturati e portati in una casermetta, dove vengono interrogati e, il 17 novembre, fucilati. Carlo Ciocca, nato a Milano l'8 giugno 1905, morto ai Bensì il 30 aprile 1945. Attivo nel movimento resistenziale del quartiere, come altri antifascisti che abitavano nella medesima via, viene deportato nel campo di sterminio di Ebensì a seguito della delazione di Renato Zema, custode del palazzo di via Palmieri 22, noto fascista e informatore della polizia. Il 25 luglio 1943, alla notizia dell'arresto di Mussolini, la gente del quartiere, soprattutto donne, prendono d'assalto la portineria del delatore per cacciarlo. Zema riesce a mettersi in salvo sparando colpi di pistola. Per vendicarsi, denuncia come partigiani i mariti delle donne. A seguito di quella delazione, alcuni abitanti del quartiere, tra i quali Ciocca, vengono deportati nei campi di sterminio nazisti. La data della morte di Ciocca, così come indicato nella lapide, è il 30 aprile 1945. Tuttavia, secondo la Gazzetta Ufficiale, sarebbe morto il 20 novembre 1944. tutto aperto così. Che noia. Quindi quanti stacchi? Partigiani, Luigi Frazza, Luigi Negroni, Mario Provasi e Paolo Volpi, quindi è una lapide collettiva. Tutti e quattro sono stati denunciati dal portinaio di Via Palmieri 22, Renato Zema, legionario della milizia fascista. Arrestati e portati a San Vittore, vengono subito trasferiti nei campi intorno a Mauthausen, dove arrivano insieme l'11 marzo 1944 e vengono classificati come politici. Luigi Frazza nasce a Lonigo, Vicenza, il 26 settembre 1899 e muore a Mauthausen il 24 giugno 1944. Partecipa clandestinamente alla 113ª Brigata Garibaldi, che opera nel Ticinese. Catturato insieme alla moglie Emma Grandini, nei primi di marzo 1944, Frazza viene mandato nel campo di Mauthausen, matricola 57140, e poi trasferito a Zement e Besne, dove muore. Viene insignito del diploma Alexander e della medaglia d'oro alla memoria del sindaco di Milano Agnasi. Luigi Negroni nasce a Motta Visconti il 20 ottobre 1898 e muore a Mauthausen il 3 marzo 1945. Attivo nella cellula comunista della Baia del Re, fa parte della 113ª Brigata Garibaldi anche lui. Dopo il suo arresto viene portato a Mauthausen, matricola 57212. Essendosi dichiarato lattoniere, per un periodo viene trasferito a Gusen in una fabbrica di armi. Ha ricevuto il diploma Alexander. Mario Provasi nasce a Mantova il 24 settembre 1899 e muore a Mauthausen il 18 settembre 1944. Fa parte anch'egli della 113ª Brigata Garibaldi. Catturato viene deportato a Zement e Bense, matricola 57356, dove viene registrato come tappezziere. L'ultimo, Paolo Volpi, nasce a Buccinasco il 15 marzo 1896 e muore a Errol Gesheim e Bense Mauthausen il 5 ottobre 1944. Era un operaio attivo nella cellula comunista della Baia del Re, fa parte anch'egli della 113ª Brigata Garibaldi. Arrestato e deportato a Mauthausen, matricola 57476, lavora come schiavo nella Kalk e Bense, dove si fabbrica olio lubrificante. Muore di stenti, ha ricevuto il diploma Alexander. Grazie. qua. Mezzogiorno e 20 e alle 2:30 partirà il corteo da Porta Venezia. Esatto. Ci vediamo là. Ci vediamo là. A dopo.